Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. In questo venerdì, caro Oscar, alle 8 e 21 minuti, ci siamo. Ma come venerdì? Ma non è venerdì, dai. È venerdì. Ma no, non ci credo. Vabbè. È venerdì, bisogna lavorare meno. Non è venerdì, lavorare perché tutti. Oggi è la giornata della memoria. Su questa è vero, la questa giornata è della vero. Memoria. E comunque è venerdì, sì, certo. E allora, che cosa dobbiamo fare in questo venerdì? Ricordare che oltre alla giornata della memoria è Sant'Angela Merici, una grande santa lombarda tra Desenzano del Garda e Salò. Nel 600, cavallo tra 500, a dire la verità, del 500, scusate, e fondatrice di un laicato per donne giovani cattoliche molto impegnate nella società, quindi una figura di grande riferimento. Altre cose da ricordare nella giornata, oltre a fare gli auguri a chi si chiama Devota e Domiziano, sono altri santi della giornata, sono il fatto che in occasione della giornata della memoria nel 2003, per esempio, Gianfranco Fini disse che le leggi razziali italiane, quelle del 38 di Mussolini, erano una pagina vergognosa della nostra storia. Ogni tanto ricordiamocelo, uh-huh, a dire la verità, che la colpa della Shoah non è solo dei nazisti, perché secoli prima di pogrom in tutta Europa, in quella occidentale e in quella orientale, hanno segnato le nostre responsabilità storiche verso gli ebrei, e se lo ricordi anche chi attacca Israele per antisemitismo. Questo, ricordiamocelo sempre, per favore. Nel 2010, oggi, iniziava la diffusione di una cosa che in pochi anni è già diventata preistoria, perché oggi l'iPad, che sembrava cambiare tutto, con i telefoni di nuova generazione eccetera eccetera, è già superato. L'iPad a casa mia lo usano i miei bimbi piccolissimi di 2 anni e 7 mesi, perché io l'ho già, cioè non lo uso più in realtà. Naturalmente tu potrai dirmi perché metti l'iPad in mano ai tuoi bambini così piccoli. No, guarda, cioè, se lo sono presi, questa è la mia, esatto, risposta, cioè, no, ho tentato di impedirlo. C'è una battaglia tra me e mio figlio Mattia che gioca a Clash Royale, una roba del genere, insomma, come Clash Royale. Vedo Peter Bescapè che si illumina, sì, grande sì, giocatore di Clash Royale. e comunque i grandi anniversari della giornata, oltre a questi terribili, naturalmente, sono il 1967, sì, l'Italia ricorda che Tenco si soglie la vita, ma in quello stesso giorno esce il primo album, e qui raddrizziamo la sta impostazione musicale di questa trasmissione, dei Doors, ragazzi, dei Doors, esatto, scusate, Jim Morrison, hai fatto anche una sigla, Jim Morrison, ma stiamo scherzando, ma cioè, a me lo dici, ma state lì a dondolare in mezzo ai fumi del joint, che quando Bob Marley. Quando in quinta liceo sono andato in gita a Parigi, sì, la mia compagna Maria mi ha detto, sì, vieni, scappiamo, e siamo andati a vedere la tomba di Jim Morrison. Ma meno male, la tua amica tentava di ricondurti, capito? Ricondurti. Invece Jim Morrison che si ispira a Aldous Huxley, cioè in questa pensa questa canzone, ma copro la voce, alzo la voce, ma smettila. Nella canzone di prima c'è la citazione di Sofocle, tant'è che esplose la polemica perché c'era un rapporto praticamente di sesso tra figlio e mamma. Light my fire, cioè stiamo parlando Aldous Huxley, e voi siete lì a dondolarvi nei fumi invece. Ma che fumi? Ma dai, cosa vorresti dire? Oh mamma, va bene, caro Oscar, no, però intanto dobbiamo salutare Nicolò, perché 5 anni, sta entrando all'asilo, aspetta la sigla per urlare a squarciagola licenziato, e poi va. Beh, mi sembra un'ottima cosa. Al nido. Ti abbraccio, e perché si significa capire bene qual è la ricetta per la, esatto, scuola pubblica. Cresce con già questa cosa del licenziato, ottimo, nelle orecchie. Pensa come stiamo facendo crescere. Ottimo, bene. È come quando ho iniziato da piccolissimo a far sentire a mio figlio stato ladro finché non l'ha ripetuto. Vabbè, però dai, poverino, Nicola poi licenziato. No, insomma, no, si sente... no, però insomma un po' di riequilibrio, visto che tu citi De Masi, impazzisci per De Masi. No, no, Nicolò tra l'altro, non Nicola, Nicolò. No, no, non impazzisco per impazzisci De Masi, per però De Masi. Mi ha colpito questa cosa, perché il sociologo De Masi ha lanciato questa provocazione. Sì. No, non è una provocazione, è una sua teoria vera. Da cioè sempre. Dire, dire bisognerebbe lavorare tutti meno, sì, certo. Per lavorare un sì. Po' di più come persone, sì. Meno ore, no, cioè... tutti meno, no? Di più dice che così secondo lui cresce no. Il lavoro, però tutti sì, meno, esatto. I disoccupati gratis e poi naturalmente i miracoli in terra di De Masi, dice, marxista De Masi. Voglio bene, è simpatico, però sai, i marxisti sono fatti così, cioè, inseguono l'utopia in terra, è così, il mondo nuovo, l'uomo nuovo, il socialismo. Licenziato! No, no, questo vai, licenzio io, De Masi è un cattedratico, è un simpaticissimo intellettuale italiano, quindi no, non però, tocchiamo i miti sacri. No, però spieghiamo la teoria, perché magari i nostri ascoltatori invece l'appoggiano, alcuni quando l'ho letto in rassegna stampa l'appoggiano. Ha detto De Masi, invece sì. Di lavorare tutti 40 ore, magari lavoriamo 35 ore. Vabbè, è già fallito. Già visto in Francia, fallito esatto. Dovunque, ma continuiamo a fallire. E così, cioè chi lavora troppo sì. In termini di ore ruberebbe un po' il lavoro a chi magari è disoccupato. Invece quello lì lavori meno e sì. dia spazio anche sì. Al mercato del lavoro al disoccupato e poi lancia questa idea. Per esempio i disoccupati iniziano a lavorare, i disoccupati un sì. Paio di mesi gratis. No, vi giuro, ha detto così, sì, gratis. Così spaccano i meccanismi del mercato del lavoro, perché se la gente sa che ce li ecco, ha gratis, e arriviamo al cuore del ragionamento marxista, no. Spaccare l'idea dell'impresa, l'idea degli utili, l'idea che il lavoro è una cosa ferma, no? La dividiamo perfetta perché è ferma, non è dinamica, non cambia, non si adatta per ritmi personali che devono aggiungere valore aggiunto, no, è una cosa statica da dividere in fette. I disoccupati iniziano a lavorare gratis, così si incassano e diventano la pressione mesi. Attraverso la quale rompiamo il meccanismo dell'impresa e alla fine l'uomo nuovo, la pianificazione socialista darà il lavoro a tutti, già visto, no, fallimenti, morti, no, fame. Non è che voglio rompere l'impresa, vuol dire che così lavorando gratis un paio di mesi sì. Fanno abbassare i prezzi, come dire, degli sì. Altri e poi si mettono nel mercato del lavoro in maniera naturale limando verso il basso, cioè no? Capisci che è la banale riproposizione del mercato del lavoro, dell'esercito del lavoro di riserva dei disoccupati. Se vuoi ti cito la pagina del manoscritto Marx del 1841 da cui viene. Io dico, siccome conosco il Marx, simpaticissimo, ci sono molti italiani che ci hanno sempre creduto, tutta la sinistra del PD continuerà a credere per sempre, questo è il cuore del ragionamento, smontiamo l'economia del mercato e delle imprese. Benissimo, a ciascuno la sua utopia, che voglio dire, io, chi sono io per negare, cioè, sicuramente verrò deriso perché è piccolo apostolo del capitalismo del piso. No, no, chiamateci, diteci. Viva De Masi, no, sì. 80024, cari disoccupati, iniziate a lavorare gratis. Allora, 800 chissà, forse 20... al sole tra poco ce lo chiederanno. No, fammi dire il numero, 800 24 0024. Tra l'altro ci scrive invece un altro ascoltatore: il mio bimbo invece di 8 anni preferisce partire con il chi se ne frega della carta costa e poi va a scuola. Beh, ma è bella ottimo, questa cosa, ottimo. Bambini di 5 anni, 8 ottimo. Anni li cresciamo bene tra chi se ne frega, licenziato, mi sembra un'ottima cosa, mi sembra un'ottima cosa. Questo portare i bambini facendo ascoltare questa trasmissione a scuola è una buona maniera, buona maniera. Va bene, allora chiamateci se volete sul lavoro, chiamateci sulla politica, chiamateci su quello che volete, sulla su quello, politica, sulla politica. Cioè, quindi mandiamo in onda gli insulti. No, dai, sulla consulta. Io dai, dico viva i vescovi. I vescovi oggi, ieri, hanno detto una grande verità. I politici non hanno fatto il loro mestiere e quindi abbiamo una legge costituzionale, cari ascoltatori, che vi deruba dei pochi residui diritti di scelta che avevate. Non contate più niente, non potete dare un'indicazione sulla coalizione di governo, né sul tipo di governo, né sul candidato premier. Partiti a mani libere, cari miei, potranno fare quello che vogliono. E va bene, va bene. Dopo, ragione, i vescovi. Dopo la pubblicità poi ci devi dire anche qualcosa sui magistrati invece. Che oggi, ti vedo caro. Ti sento carico. Ma no, ma sai, io quando mi vedo derubato del diritto e vedo i partiti a mani libere, dico torniamo al motivo però per cui l'Italia è così. Guarda, usciamo dall'euro anche, perché no? In poche ore così risolviamo tutti i nostri problemi. Però Oscar, noi vogliamo raccontare invece la storia, qualche minuto, di un imprenditore di Caneva in provincia di Pordenone che ci fa capire, insomma, che la burocrazia è tutta una storia legata anche al terremoto, alla neve, a quello che poi abbiamo sotto gli occhi tutti sì. I giorni. Sì. Perché questa storia è la storia di Paolo Rossetto, che è un imprenditore che salutiamo. Buongiorno e grazie di essere qui, Rossetto. Buongiorno. che lavora in un campo, no? Le cosiddette turbine, spesso queste macchine che sono citate molte. Cos'è esattamente una turbina per spazzare la neve? Allora, praticamente è una turbina per aprire dei varchi stradali sulla neve. È una macchina semovente attrezzata con una fresa, una testata sulla parte davanti, con diverse potenze, in grado di affrontare diverse nevicate, esatto, di alte entità. È fondamentale ed è tanto citata in questi periodi perché si dice mancavano le turbine anche lì in Abruzzo. Lei per esempio ha raccontato, c'è stata raccontata questa sua storia sul Gazzettino, perché lei dalla Regione Marche fu contattato, lei fa questo, cioè produce turbine, no? No, noi facciamo il servizio di scopro neve. Esattamente, siamo specializzati in questi interventi, insomma. Perfetto, siete stati contattati 3 anni fa dalla Regione Marche. Perché non gli avete dato le turbine? No, allora, noi abbiamo già fatto un intervento d'urgenza nel 2012 per l'emergenza Pesaro Urbino, in cui abbiamo aperto, siamo stati contattati, siamo andati giù e abbiamo aperto diverse strade richieste, abbiamo fatto una decina di giorni giù, insomma. Questa volta invece ci hanno contattato la Regione Marche, dopo aver visto insomma la nostra azienda, ci ha ricontattato e praticamente volevamo partire, avevamo già attrezzato tutto quanto per partire, in 24 ore eravamo sul posto insomma, no? Dopo la chiamata, solamente che poi purtroppo si sa come funziona con l'ente pubblico, che bisogna attendere troppo tempo insomma per ricevere i pagamenti. Quanto? Quanto per esempio la prima volta? La prima volta abbiamo aspettato più di un anno insomma. Più di un anno, sì. E stavolta? Le spese son tante da sopportare per una ditta come la nostra insomma, perché non è che siamo una ditta grandissima, però insomma ci impegniamo su questi campi. E questa volta abbiamo chiesto un anticipo. Un anticipo per almeno per i trasporti, no? Di 11.000 euro. Sì, perché i trasporti, almeno per trasportarle, sono, esatto, per portarle in luogo e renderle operative. Operative sul luogo, insomma. E cosa vi hanno detto? Non ci hanno più risposto. Io ho provato a contattare, abbiamo parlato con diversi funzionari per l'emergenza, abbiamo atteso tutta sabato, tutta domenica, però purtroppo non ci hanno più ricontattato e purtroppo, diciamo, noi è una cosa che lo facciamo, questo lavoro qua, queste emergenze qua le seguiamo proprio. Sì, però diciamo, non è che lo fate per beneficenza, appunto è un lavoro insomma, quindi, ma purtroppo le spese sono alte da affrontare per un intervento simile, anche perché se sei attrezzato in maniera efficiente fai qualcosa, andare giù per fare dei lavori inutili non ha senso. Sì. No, ma è chiaro, Rossetto qui, caro Oscar, ci dice una volta mi hanno pagato dopo un anno, la seconda volta dice vabbè, adesso magari 11.000 euro per trasportarle. Il Gazzettino che in edizione portofoglio dava spazio a questa vicenda, l'abbiamo vista lì, è andato poi a vedere in Regione Marche a che tempo paga anche altre imprese private per i mezzi di rimozione neve e ha scoperto che i ritardi possono arrivare fino a 2 anni e mezzo. Sì, certo. E siamo sempre lì. A voi è andata perfino bene, lo Rossetto, Stato che non paga, e poi ci dice che noi non dobbiamo criticare perché dice lo Stato c'è, salva vite, tutti i mezzi necessari. No, lo Stato che non paga, come vedete nell'emergenza, rimane lo Stato che non paga. E quindi è inutile che si incazzino quando noi critichiamo, perché la storia dell'imprenditore che abbiamo qua testimonia che amaramente è così. E allora cosa bisogna fare a chi i privati hanno piccole imprese che sono attrezzati per questa specializzazione? Bisogna chiedergli di chiudere nel medio termine perché tanto li usiamo nell'emergenza. Ed è giusto che lo Stato non abbia tutti questi mezzi, perché altrimenti non li utilizzerebbe poi per mesi e mesi, no? Quindi è giusto che li noleggi quando c'è la necessità, però li deve pagare, perché altrimenti tu dici, chi ha impegnato il capitale circolante nel tenerli, se non li paghi chiude, capisci? Ecco, tutto qua. No, anche dire lo Stato è presente, deve essere presente anche in questo modo, certo, banalmente, cioè se, se un privato mette a disposizione dei mezzi, bisogna pagarli, altrimenti... Altrimenti e lo Stato c'è coi soldi degli altri, anche se permetti, non è lo Stato che c'è. Vabbè Rossetto, ma questo vi ha fatto considerare il fatto che lavorare con la pubblica amministrazione non conviene più, conviene... Insomma, non conviene, purtroppo noi siamo... Noi operiamo in tutti i campi, quindi lavoriamo con la pubblica amministrazione. Ci sono delle pubbliche amministrazioni in cui riesci anche a ragionare, sono abbastanza serie, e alcune amministrazioni che temporeggiano per varie motivazioni o addirittura non saldano. Oh, non saldano, vabbè, lo sappiamo. Ci sono tantissime imprese purtroppo che devono chiudere per crediti, crediti nei confronti della pubblica amministrazione, non per debiti. E purtroppo poi vanno a gambe all'aria perché poi uno può anticipare, poi gli stipendi degli operai e i dipendenti li devi pagare. I fornitori devi pagare. Approfittiamo anche per ricordare che nel centro Italia restano, dice oggi Messaggero una pagina intera, almeno 15.000 imprese a rischio. Vediamo, perché se lì non si fa niente, si fa passare il tempo, come abbiamo scoperto che da ottobre ad agosto è passato il tempo senza grandi interventi e quelle imprese moriranno. Noi la ringraziamo Paolo Rossetto, imprenditore di Caneva in provincia di Pordenone, Friuli, che ci ha raccontato questa, se volete, piccola storia, ma piccola grande storia. Buon pagamento a lui, cioè, spero che non... Sì, ce ne sono tante storie simili, certo. Questa è proprio legata all'emergenza neve, no? Vedi che le turbine poi sono ferme, a volte ci sono, ma non vengono anticipati i soldi e quindi poi ci rimane senza niente. Niente, abbiamo scatenato un putiferio tra chi dice che preferisce il licenziatelo, chi il basta basta, chi se ne frega, chi no, c'è questo anche chi, per dire il nostro lavoro come viene c'è apprezzato, chi, caro tu Oscar. Poi avevi lanciato il tema su meglio drogarsi con il fondo, con la centrifuga, c'è chi interviene. Ragazzi, no, c'è una pagina sulla verità. Cioè, leggendo i messaggi che arrivano. Ci sono gruppi su YouTube di c'è fan Ugo che del dice fondo. Che adora la centrifuga. Secondo me adora la centrifuga anche per una serie di... Così che non che voglio cosa? Questo. Siamo in fascia protetta, questo, come sai. L'ultima ossessione è drogarsi dal rumore del phon. Ma a me fa venire un nervosismo. Capisco che tu, Oscar, il rumore del phon a casa tua lo senti poco. Non è vero, perché dovresti perché vedere quanto lunghi. Certo. Caro mio, tu tendi così a voler. Capisco per una serie di ragioni, però i doveri del marito sono i doveri del marito, caro mio. Io se facciamo ancora 10 secondi con questo rumore sottofondo spacco un microfono. No, poi no, meglio di no. Puoi di togliere no. Questo rilassante rumore del phon? Meglio di no, però io scopro sempre che del resto è fenomenale. La capacità dell'uomo di autoilludersi, quindi l'effetto placebo, no? Sì, cioè. Poi la droga ha anche una componente di questo tipo, oltre naturalmente alle sostanze chimiche per chi le assume. Però in questo caso stiamo parlando di un effetto sui neuroni, perché è un rumore, no? Eccetera, eccetera. Ma da fastidio, quindi, da molto fastidio. Ho capito, però per esempio... Per molte signore è una cosa associata a uno dei momenti in cui si possono rilassare, è un momento in cui, capisci? E in cui magari c'è un contatto fisico che non viene equivocato da chi gli mette la mano addosso fisicamente. Vuoi sapere? Che vuoi sapere? Io l'ho risolto, i capelli non ce l'ho. Sei alla psicologia del rumore del fondo. No, è così. Vabbè, sentiamo Davide che ci chiama da Monza. Buongiorno. Parto? Vada. Allora, dove devo sapere, Masi. Ma che dici, Masi? Che dice? Cioè, ma lui quanto piglia di stipendio? Ma Masi, perché non fai tu 2 mesi a gratis senza stipendio? I mesi di Masi, 2 mesi di Masi. Abbiamo già stipendi da fame, siamo il fanalino di coda per quanto riguarda gli stipendi, non aumentano. Lui vuole tirare indietro le ore, quindi praticamente dobbiamo arrivare proprio alla fame. Sì. Ho preso la 13ª, mi hanno scontato il 35% di tasse. Ora vorrei capire tanto. Però Davide, facendo così faccio il Masi, lavorando meno, secondo Masi permette a un'altra persona di lavorare. Non è vero, è un disoccupato. Masi è matto, perché c'è gente che non vuole lavorare. È la comune del lavoro, la comune del lavoro. Ho capito, ma però dai, proposte così fanno ridere i bambini. Va bene, Davide, noi andiamo in pubblicità a meditarci, su e poi torniamo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo alle 8:43 minuti. Allora. Vediamo che ci dice Gianni da Firenze, che è lì da un po'. Ecco. Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto io sono per il basta basta. Basta. Voglio aggiungere una cosa sulla teoria di Masi, che insomma è avvincente, ma non funziona sicuramente, ma per un motivo ben preciso, perché i disoccupati spesso e volentieri, non tutti per l'amor del cielo, ma insomma molte occasioni. sono tali perché ci si sentano bene in questo status, perché l'indennità di disoccupazione non è male, insomma, come idea. Spesso quando si fanno colloqui di lavoro ci si sente rispondere, no, ma io lavoro per 3 mesi, insomma, prendo già l'indennità di disoccupazione, sì, non vorrei perderla. A parte che non si perde, si protrae, insomma, nel tempo. Alcuni, la maggioranza, immagino che non... La maggioranza, senta, nelle nostre parti d'Italia i disoccupati spesso sono tali perché... insomma, hanno molte esigenze lavorative e poca voglia, mentre quelli che fanno anche le ore in più alle 40 ore sono spesso persone che hanno veramente bisogno di lavorare e tengano veramente al lavoro, e questo spesso dal datore di lavoro viene riconosciuto, mentre il disoccupato vero spesso, sì, non dico sempre, insomma, tra ammortizzatori sociali e tra... Vivacchia. Non so se questo ideale è solo... mia, ma non so, sembra che... Oscar, Gianni ci dice che c'è una pletora un po' di persone che si accontenta piuttosto che faticare, si accontenta. Vabbè, ma si accontenta, ma quando prende l'indennità di disoccupazione la pagano i lavoratori, mia la paga. No, chiaro, questa è la sua... Beh, quando si arriva alla cifra che hanno proprio i disoccupati giovanili, no? Tenete sempre conto che in questa cifra spaventosa, 40, siamo al percentuale terribile, la percentuale è rilevata su coloro tra giovani che poi cercano lavoro, e non è sul totale delle corti giovanili, però resta il fatto che abbiamo una percentuale pazzesca, quindi dopo la Grecia praticamente veniamo noi. In quel caso è un loro malgrado, non è che a molti vada bene così, perché chi cerca lavoro ma non perché l'ha perso prima non ha neanche lo strumento di sostegno al reddito, quindi è costretto a stare con papà e mamma, non è proprio... Ma certo, ma notizia oggi sui giornali, la Confartigianato di Palermo ha lanciato l'idea, facciamo i lustrascarpe, facciamo il bando. Quanti si sono presentati? Si sono presentati in tanti, tra cui anche laureati, a fare il lustrascarpe, non c'è nulla di male, però questo significa che il lavoro non è... Dove poi... tanti significa migliaia, cioè, per avere un'idea. Però grazie al cielo noi abbiamo i magistrati che tentano di vendere la loro difesa corporativa per avere l'eccezione sull'età della pensione, e la presentano invece come una grande questione democratica, perché addirittura il governo vorrebbe decidere, il governo di scegliere i magistrati. Cari amici dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, non ci siamo proprio. Non ci siamo. Spieghiamo, l'hanno disertato la... per la prima volta, no? Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Esatto. Perché i magistrati dicono sono state fatte delle eccezioni ad alcuni alti magistrati che possono lavorare fino ai 72 anni e non a tutti i magistrati. Perché dopo proroghe già avute da tutti gli ultimi governi, loro a dispetto di tutti gli altri italiani sull'età pensionabile, di fronte alla certezza di averne un altro governo Renzi che non hanno ottenuto, perché la giustificazione è bisogna mantenerli tutti sui posti apicali, quindi è difesa di chi esercita, no? Gli uffici giudiziari più elevati, questo era il motivo perché non si nominano i loro sostituti, di fronte all'idea che si nominano i sostituti, ma quelli apicali, meglio finché non li nominiamo tenerli, loro dicono, allora volete intaccare il fatto che noi restiamo dove stiamo. Dipende da come la racconti questa storia. Sì. No, non mi è piaciuta perché è la difesa di un privilegio. Piacerebbe a molte categorie avere eccezioni sull'età pensionabile, naturalmente non sono in condizione di averle, mentre loro con l'esercizio di funzioni molto delicate all'apice degli uffici giudiziari hanno già ottenuto privilegio. E il tentativo di raccontarla diversamente è sbagliato, perché un privilegio si chiama privilegio. Cari magistrati che agite in nome del popolo italiano, perché la legge è uguale per, come dice quel cartello, per tutti. Paolo ci chiama da Bergamo, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre. Allora, io ho 51 anni e 37 anni di cantiere sulle spalle, ho cominciato a 14 anni, sarei un precoce. Adesso io dico, io ho una figlia di 20 anni e una di 18, non trovano lavoro. Io sarei disposto a lasciare un po' della mia pensione se mi mandasse, perché io devo lavorare ancora 10 anni, praticamente, di cantiere, è dura. Sì. Specialmente in quei giorni qua che fa freddo. Certo. Quando avevo 20 anni non mi piaceva niente, adesso è dura, è veramente dura. Sotto a meno 5, meno 6 è dura. Immagino. Io dico, io devo lavorare, no? Devo prendere tutto quello che c'è, perché devo mantenere anche le mie figlie che sono in età di lavoro ma non possono lavorare. Io direi, mi viene 1.500 di pensione, mandatemi pensione. Io ne prendo anche solo 1.000, che io e mia moglie le esigenze sono poche, ma fate lavorare le mie figlie. Lo lascio, io quei soldi lì in più li lascio allo Stato, l'importante è che fate imparare, prima cosa, a imparare un mestiere alle mie figlie che hanno 19 anni e non hanno ancora fatto un giorno di lavoro. Che futuro avranno? Oltre che poi devono andare a lavorare fino a 70 anni. Io lo capisco. In teoria sul discorso non fa una piega. A parte il fatto che, come sa, nella legge di bilancio, e adesso stanno pensando alle misure attuative, ci sono misure per chi in alcuni lavori ha 41 anni diversamente, eccetera, eccetera, eccetera, e per prepensionare e così via. Sia senza perderci che per chi lo vuole fare al di fuori di alcune categorie, lavori usuranti, anche con un assegno che va in anticipo rispetto ai tempi della fornitura. Nero e non ci rimetti, però prendi meno assegni. Ma al di là di questo, la domanda che le faccio è: se domani accettassimo la linea De Masi e quindi il suo orario nei cantieri scendesse, la sua figlia di 19 anni può salire sui ponteggi e andare in cantiere a lavorare al posto suo, secondo lei? La risposta è no, no, perché sua figlia non è che ha 19 anni è in grado di fare quello che fa lei nei cantieri, eccetera, eccetera. No, Paolo fa un discorso addirittura più complesso, cioè dire io rinuncio un po', ma date un posto di lavoro purché sia a mia figlia. Capiamo umanamente infatti lo capisco, sfogo, bene. Però è un po' complicato così. Pensa, Oscar, che dobbiamo salutare un senatore suo malgrado. Il senatore del gruppo misto, era del Movimento 5 Stelle, poi è passato al gruppo misto, Giuseppe Vacciano, che abbiamo già ospitato un'altra volta. Senatore, buongiorno. Buongiorno a voi. L'abbiamo tenace. Lui davvero se lui vuole andare. È testardo, lui vuol fare una cosa che non sa da fare al Senato. Vuole dimettersi. Posto dove tutti vogliono restare il più lungo possibile, lui dice no. Vuole dimettersi. Ci ha provato 4 volte a presentare le dimissioni, ma le dimissioni dal Senato devono essere votate dal Senato. E per la 4ª volta, senatore Vacciano, com'è andata? È andata male, purtroppo, è andata male per me. Andata male, cioè sono state respinte. Con lei, larga maggioranza, purtroppo. Lei è obbligato a restare lì. Ma in questo caso lei lo sa che i giornali dicono che questa è una cosa di pragmatica, che chi presenta le dimissioni sa che verranno respinte, quindi vuole farsi bello. Nel suo caso è così oppure no? Ma questa cosa può essere vera se uno le presenta una volta come atto dimostrativo, altri colleghi anche in questa legislatura l'hanno fatto, infatti poi sono tranquillamente rientrati in buon ordine nel loro partito. Lei invece no. Io le ho presentate 4 volte e ho fatto 4 votazioni, cioè, se volevo fare la dimostrazione la facevo una volta, era già finita. Anche alla seconda potevo fermarmi. Ma scusi, allora c'è un'unica altra ipotesi per me, vecchio topastro dell'osservatorio politico: vuol dire che non vogliono che subentri chi dovrebbe subentrare. Chi dovrebbe subentrare? Uno del Movimento 5 Stelle, ma questa giustificazione viene meno nel momento in cui io voto sempre con il Movimento 5 Stelle. Sono opposizione, sono rimasto opposizione. No, ma infatti il problema non riguarderebbe lei, per questo lo vogliono tenere, ma forse chi subentra al suo posto, se lei a quel punto si vota e accetta. Ma subentrerebbe uno del 5 Stelle, lui vota. Non so, perché non di so. Solito questa è la ragione, altrimenti non si spiega. Lei no? Li guarda negli occhi i suoi colleghi e gli dice: ma perché tu hai votato? Il voto è segreto, immagino, quindi. Sì, il voto è segreto, ma io guardi, ho provato anche a parlare uno ad uno, però. E che le dicono? Che le dico? Alcuni li ho convinti, però se vado avanti a convincere 10-15 alla volta posso stare lì fino alla prossima legislatura, anche quell'altra ancora. E molti mi dicono che quello che mi ha detto, io poi rispetto per carità l'opinione di tutti, il senatore Buemi, mi ha detto no, questo è una cosa politica, è un punto politico, io come punto politico le tue dimissioni non le voterò mai. Ma perché? Cioè, perché quale sarebbe la questione? Ma quando politica? Entri in una compagnia di eletti non puoi decidere di uscirne, come sarebbe a dire? Come l'Opus Dei? I superiori, gli eletti. Ma certo, l'idea è: una volta che entri qua, se tu vuoi uscire, commetti l'errore di svelare all'opinione pubblica che se ne può uscire. Mai, giammai la sacralità del Parlamento, l'intoccabilità del mandato. Senatore Vacciano, lei vuole andarsene dal Senato. Facciamo un appello, ma tanto non servirà. In realtà, i suoi colleghi li votano contro perché convinti che sia un volte. Povero malato mentale uno che se ne vuole andare, bisogna capirli questi senatori. Senta, ci rinunci, rimanga, beva questo amaro calice, rimanga lì. Ma diciamo che a questo punto spero che l'amaro calice sia più corto possibile. Cioè dice spero che finisca la legislatura. Lei è l'unico. Ma legga i giornali di oggi, troverà un mucchio di parlamentari del PD che, anche se Renzi dice votiamo 11 giugno, dicono no, ma che al 2018, anzi forse un anno in più, 2019. Ma bisogna davvero votare, no? Ma poi se sta lì, anche lei matura il vitalizio a settembre, perché è la prima esperienza, no? Le fa sì, comodo. Sì, la pensione a 65 anni, quella pensione integrativa a 65 anni. anni, cosa che io ero venuto lì proprio per evitare di protrarre per tutti, non solo per me, quindi sarebbe anche ridicolo che fra 20 anni mi dovrei preoccupare di come restituirla, come restituisco adesso le mie eccedenze, insomma. Vabbè, senatore Vacciano, lei ma ci riproverà una quinta volta? Sì, sì, la lettera l'ho ripresentata ieri pomeriggio. Niente. Io sono sicuro che vincerà lei. Anche il giorno prima della fine della legislatura. No, io sto con Vacciano. E come ammettere, per chi vota a favore della richiesta del senatore Vacciano, è come chiedere che ha un fondamento ragionevole decidere di non voler far più parte di quel club. Come invece ed è ovvio che questa roba loro, molti di loro, non la buttano giù. Dici, ma come sarebbe a dire? Ho capito, ognuno è diverso. Il senatore Vacciano ma vuole dimettersi. Tutta la vita Senato. Viva Vacciano, però devi capire che i prevalenti in quella gabbia sono di altro tipo. Ma metti poi uno che ha veramente un problema, non questione di puntiglio e politico, ma un problema e deve davvero dimettersi. Che fa? Oh Gesù, cioè, l'obbedienza è per idea cadaver alle caste, non è mica che cioè, adesso arrivi tu e dici cambio tutto. Io sono gesuita a tempo, sì, domani. Niente, senatore Giuseppe Vacciano, la ringraziamo, gruppo misto ex 5 Stelle, sta cercando di dimettersi 4 volte, respinta le dimissioni dall'aula, ci riproverà la quinta. Vabbè. Va bene, aspettiamo di vedere come va. Iniziamo a farle calendarizzare un'altra volta. No, diciamo che dopo 4 volte non è che ho tantissime speranze. No, bene, anche testardo, ma... va bene la testardaggine, ma insomma, noi siamo con lei. Ci sentiamo alla quinta. Intanto ci fermiamo qui, caro Oscar. Va bene. Tu oggi pomeriggio, domani. Io oggi pomeriggio, domani. Come no? Qui, buon ripeto, weekend. Salta l'euro, salta generali. Noi qui ridiamo, ma nel frattempo. Vabbè, a lunedì!